sulle spalle il contrabbasso più pesante di un cobo, gli strumenti sotto il braccio, già l'orchestra se ne va, e di certo dall'impaccio più nessun mi caverà. Abbasso il contrabbasso, io non ne posso più, abbasso il contrabbasso, non posso fare un passo, più libero non sono, abbasso il contrabbasso. Chi me l'ha fatto far il contrabbasso di studiare? Chi me l'ha fatto far il contrabbasso di studiare? Il contrabbasso di studiare.